Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. È nato a Monza, ma la sua identità anche linguistica si forma dall'infanzia sul lago di Como. Le prime esperienze musicali nei Potage, gruppo di ispirazione punk, poi forma una sua band con cui comincia a elaborare i primi testi in lombardo occidentale, quindi inizia la sua carriera solista. Nel 1997 viene pubblicato il suo primo libro, nel 99 gli viene assegnato il premio SIAE Club Tenco come miglior artista emergente, nel 2002 la targa Tenco per il miglior disco in dialetto e comincia a farsi conoscere in tutta Italia. La consacrazione quest'anno al Festival di Sanremo, dove a sorpresa si classifica al quarto posto. Lui è Davide Bernasconi, cioè Davide Van de Sfroos. Ma intanto, come gli è venuto in mente di andare a Sanremo? Non lo so nemmeno io. La grande cosa cosmica è proprio questa. Bussano alla porta i signori Mazzi e Morandi, si siedono a mangiare polenta e coniglio e mi dicono: perché non viene a Sanremo? Perché quest'anno è un anno particolare, abbiamo questi tipi di ospiti, abbiamo personaggi come ad esempio Vecchioni, Luca Madonia, Ila Cruz, gente che sappiamo essere anche tuoi amici, e è un anno di cambiamento, sarebbe molto forte anche il dialetto finalmente sul palco dell'Ariston. E io ci penso un attimo e Morandi, il re della schiettezza, mi dice: ti spiego anche quelli che sono i contro, potresti sputtanarti, potresti perdere tutti i tuoi fans, potresti fare una figura ridicola, ma a noi farebbe molto piacere. E tu mi dici: allora perché hai accettato? E io ripeto: non lo so, forse perché noi dalla GHE saremo anche furbi, saremo anche a tratti così, ci piace ostentare un certo macismo, ma siamo anche un po' pirla. E allora, scherzi a parte, sono sensazioni. La sensazione era quella di un qualcuno che voleva fare qualcosa di realmente differente. Ci ho pensato una settimana, ci ho creduto e poi ho detto: le cose o le fai o non le fai. Se dobbiamo star qui davanti alla televisione a dire come sarebbe andata se, diventa una cosa che poi non potrai mai avere come risposta. Allora, per una volta, visto che comunque dentro di te hai già deciso, vai e basta. Grazie alla sua energia ha dato grande popolarità al dialetto laghè del lago di Como. Lui è Davide Van de Sfroos. Paura delle strumentalizzazioni? Tanta, poca, mai? Ne sono successe talmente tante nel corso di 10-15 anni di persone che avevano talmente paura che fossi strumentalizzato che sono arrivati loro stessi a tentare di controstrumentalizzare, per cui qualcuno che non aveva mai detto una cosa era temuto e allora dall'altra parte la notizia si ribaltava su se stessa, quindi quella che era la canzone, quello che era il mio mettermi lì, scrivere un testo anche importante, anche profondo, passava sempre in secondo piano e la gente dell'Italia doveva sempre leggere sui giornali soltanto delle cose superficiali, vuote, inutili e un po' tristi. Passati poi quegli anni mi sono abituato, ho capito che quelli che volevano capire avevano già intuito quello che era il mio percorso, mi ritrovo puntualmente sotto il palco, non importa se io sono a Cremi, a Lago di Como o se sono, che ne so, nel Salento, in Sicilia o a Valle Saccarda, e il linguaggio della canzone, il linguaggio del testo è più forte di quello, come dire, dello scoop. È chiaro che però la paura, oddio, non il terrore, si sa che tutto è in agguato se io faccio un passo falso, se domani mattina esco a far footing con addosso una bandiera giamaicana in mutande, sicuramente la notizia è quella e tutto quello che sono 10 anni di ricerca, di tentativi, di spiegare, di fare, passano in secondo piano, ma questo fa parte del mondo dello spettacolo. La paura è vero, come nel film Devil, un uomo senza paura è un uomo senza speranza. Ma atteggiamento, e nel momento in cui vuoi ballare bisogna ballare fino in fondo, nel momento in cui si vuole fare questo esperimento bisogna avere il coraggio di farlo. In Italia esiste della gente che parla così. Se vogliamo portare il dialetto a Sanremo vuol dire che c'è un'apertura di un'Italia che si vuol conoscere meglio e che si appassiona per le sue differenze, per le sue qualità, per le sue tante sfumature. Se invece tutto quello che va fuori dal piattume ci irrita, ci dà fastidio, ci fa appassire perché dobbiamo pensare o tradurre o leggere, allora andiamo avanti tranquillamente così, e poi un domani chiediamoci come mai ci siamo ritrovati lì a guardare il tramonto senza aver visto più niente. Chi è Yamez e chi sono questi strani personaggi che si affacciano alla tua canzone? A volte siamo noi, a volte sono attorno a noi, come direbbe l'amico Frankie. Yamez lo conosciamo bene, chi ha letto Salgari sa benissimo, è l'amico fraterno di Sandokan, portoghese. Yamez de Gomera, lui che poteva starsene tranquillo a farsi i cavoli suoi, decide di mettere la sua vita in pericolo ogni giorno nelle grandi avventure in modo romantico. Yamez fisicamente era anche mio padre, che amava il mare, che amava il personaggio salgariano e che si rivedeva molto anche nella fisionomia televisiva di Philippe Leroy. Negli ultimi anni della sua vita lui è stato spesso a Cesenatico, dove io stesso da bambino sempre andavo, e in una sera nella quale volevo forse ricordare tutto questo ho scritto una canzone con un tormento. Ero a casa solo e pensavo alla riviera, dove in quel momento c'era la mia famiglia, tutti quanti. Pensavo a questa riviera che io ho conosciuto anche nella sua versione non vacanziera, ma perché Cesenatico è un paese vero, c'è il Porto Canale, ci sono i pescatori, è Cesenatico anche a Natale, non è un paese di quelli fantasma che finisce la vacanza e non c'è più. E mi immaginavo, ma Cribbio, anche noi siamo stati un po' pirati, anche noi siamo stati sognatori, anche noi abbiamo provato un po' a muoverci dentro mari non sempre comodi, ma se tutti questi personaggi epici io li portassi lì in vacanza per una volta, adesso che sono vecchi, adesso che hanno il riporto, adesso che sono sovrappeso, cosa succederebbe? E lì è nata la canzone. La macchina del zio Tony, senza tech né cupertoni, col volant che se destaca, cui cusen de pel de vaca, parcheggiadan del fienil, cui galeni in sel sedil. Il mondo della musica è cambiato, era già in crisi, è arrivata la crisi economica. Ai tempi di Pica, con la discografia in crisi, io rimasi stupito di come un disco scritto da me in dialetto, Tremezzino, Lago di Como, era arrivato al quarto posto in classifica prima di riempire il forum con 11.500 persone, nel momento in cui stavamo parlando sensibilmente di crisi. E allora c'è qualcosa che succede laddove l'ascoltatore diventa sostenitore di un qualcosa in cui crede, ed è così anche per tanti altri colleghi. E a Gusle un gigante con la crapa buienta che il buffa e che mola i soschiaf, e picchia il mortaio sui volti sudati di tutta la piazza della. Io sono abituato a essere un viaggiatore, a essere un antropologo che si metteva proprio in gioco direttamente, e anche questa volta sono spettatore Del sasso lanciato in acqua, dove il sasso sono poi sempre io, cioè mi lancio in acqua e guardo quanti anelli e che tipo di movimento fa l'onda. Mi piacerebbe far capire a quell'Italia che non mi conosce chi sono, cosa faccio, che genere faccio e che canzoni canto. Dico questo perché a volte le persone vorrebbero piacere a tutti, anche solo così così, però piacere un po' a tutti. Io credo che per me vendere per forza a tutti non interessi più di tanto, anche se i soldi sono soldi, la fama è fama, ma l'idea di poter piacere totalmente a 50 anziché così così a 100 per me è sempre stata una cosa molto importante, perché faccio un tipo di lavoro, faccio un tipo di canzone che vuol davvero comunicare qualcosa, e se non la capisci, se non, ma non parlo di testo, se non capisci il messaggio, se non capisci lo sforzo, quasi quasi ti rimborserei il disco, cioè te lo vengo a riprendere, lo riporto, lo diamo a un altro che ha proprio voglia invece di questa cosa. Se io diventassi, che ne so io, una bandiera obbligatoria perché è un trend del momento, sì, vabbè, uno dice, vabbè, ha funzionato, ci sono un po' di possibilità in più, ci sono tante cose, però mi spiacerebbe arrivare così in modo sbagliato alla gente. Mi interessa che capiscano, mi interessano che si appassionino ad un percorso che io mi rendo conto non essere uno dei più semplici, ma che da sempre seguo. La nostra voce in scena di oggi era Davide Van de Sfros. Ci ritroviamo domani alla stessa ora per un altro appuntamento. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.